brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Il mito, sogno, illusione, struggimento di una casa tutta nostra come vorremmo noi. Ecco, questo è il centro probabilmente dell'immaginario e del desiderio inespresso di ogni essere umano. Perché me ne sono accorto? Perché noi siamo stati attraversati in questo ultimo anno da diversi filoni scandalistici che riguardavano comunque personaggi importanti della politica, del mondo della finanza, del potere, ecclesiastici, persone normali, imprenditori e via dicendo. Il primo grande filone è riassumibile in una sorta di lunga, grande, importante e anche colorita campagna attorno a gusti, abitudini, passatempi di tipo sessuale. Beh, questo non mi sembra che abbia fatto indignare moltissimo gli italiani. Sì, normalmente molti si sono nascosti in un angolo per la vergogna, altri hanno detto ma che mondo, dove siamo finiti, dove siamo rimasti, ma alla fine poi stavano tutti di gomito. Pensare che personaggi potenti appartenenti al mondo della finanza, della cultura, della politica, dello spettacolo e via dicendo svolgessero passatempi licenziosi con signorine, signorini, ex signori e via dicendo, non è che poi in fondo indignasse nessuno, non indignasse più di tanto, non colpisse profondamente nei propri affetti. Ma adesso che la stessa ondata diciamo di pubblico riprovazione sta accarezzando il tema della casa, lì sì che vedo gente arrabbiata di fronte al fatto che qualcuno abbia potuto impropriamente si sia approfittato di un genere così ambito, così desiderato, così ferocemente contrastato nel suo possesso come la casa. Qualcuno possa approfittare di una casa a condizioni pregiate rispetto agli altri, beh, questo manda tutti veramente fuori dai cancri. Questo mi fa pensare che in realtà nella classifica, nella gerarchia dei nostri desideri, delle nostre piacevolezze, dei nostri sogni di felicità, la casa è centrale, è il primo posto. Ma infatti è vero, guardatevi un attimo dentro di voi. Qual è il motivo vero per cui ci si affanna, ci si muove, ci si articola, si lavora, si studia sin da ragazzi? È per costruirsi una casa, per avere una casa, ammesso che questa casa ce l'abbiamo già perché qualcuno ce la lascia in eredità, perché siamo così fortunati per il fatto che abbiamo una famiglia ricca e numerosa, quindi abbiamo già tante case. E comunque il nostro piacere è tornare in quella casa, andare in quella casa, o fra le tante case che noi abbiamo, avere quella che ci siamo costruiti addosso. Ognuno di noi penso che abbia una sua dimora ideale, che è un po' come il guscio per la lumaca, una sorta di guscio trasparente costruito su di noi, costruito sulla nostra carcassa organica, che è costruito dalla materia per la maggior parte di noi, dei nostri sogni, il nostro desiderio. Come immaginate la vostra casa? Come vorreste la vostra casa? Ci sono attimi durante la giornata in cui a me piacerebbe schioccare le dita così e vorrei che mi si costruisse attorno, come accade nei film fantastici, una casa e mi isolasse dal mondo e stessi chiuso in quella casa da solo, con la persona qua accanto o con le persone con cui vorrei essere isolato dal mondo. La casa è veramente il nostro universo personale, l'universo che racchiude noi stessi, la nostra percezione, il mondo del nostro immaginario, e ci isola dal mondo esterno. Però la casa la vorremmo come fosse costruita addosso a noi, come se fosse un nostro vestito. Come vorrei io la mia casa? La vorrei molto luminosa, la vorrei senza mobili assolutamente, senza quadri alle pareti, la vorrei vestita soltanto di luce e di cose soffici per poter star seduti, la vorrei con degli strumenti di lavoro perfettamente illuminati, perfettamente ergonomici, la vorrei con un monitor, con una tastiera che dovrei soltanto sfiorare, la vorrei con un computer che non mi faccia male agli occhi, la vorrei silenziosa e profumata, la vorrei ben popolata o la vorrei deserta. Questo è il mio sogno, ma qual è il vostro? Michael Schumacher, una casa da sogno. All'interno dell'edificio vi è ogni genere di lusso e di comfort, dalla piscina alla beauty farm, passando per la sala con immenso camino, fino ad arrivare al bunker antiatomico e a un sofisticatissimo sistema di sicurezza che unisce la videosorveglianza a tappeto con dei sensori di calore e di movimento. Tra le stanze più interessanti c'è l'ufficio di Michael Schumacher, posizionato proprio nella torre principale, la galleria dei trofei conquistati in carriera, non pochi, e chicca delle chicche, la stazione di rifornimento. Tra Ferrari, Maserati, Bentley e il personalissimo elicottero, Schumi non può certo rischiare di restare a secco. Vedete la conferma di questo concetto su cui stavo riflettendo. La casa di Schumacher è come una grande stazione di servizio, come una grande officina, come lui la immagina, come io penso nell'immaginare la propria abitazione ideale. Ognuno già immagina l'angolo di ipotetico paradiso che vorrebbe abitare per l'eternità. Quando noi vediamo una casa che ci piace, cerchiamo una casa, la ricerca della casa è il più affascinante e illusorio degli esercizi che possa fare un essere umano. Andare in giro a cercarsi una casa, poi non sa manco se uno poi avrà la forza, il potere d'acquisto sufficiente per farla sua. Ma andare in giro, entrare, aprire per la prima volta un portone di una casa sconosciuta e sentire qualcosa di familiare, intravedere attraverso quelle pareti da ristrutturare, quei fondelli da abbattere, quei mobili da buttare via, quel clima e quell'odore umidiccio di pipì di gatto da epurare, intravedere quella che è la struttura ideale della casa che potrebbe accoglierci, di quella sorta di geometria assoluta che sembra coincidere perfettamente con la geometria che ha armonizzato il nostro corpo, il nostro vivere, il nostro perimetrare, il mondo che ci circonda da quando siamo nati. 800240024, voi che vi indignate per alcuni personaggi potenti, ricchi, famosi, possono avere case bellissime a prezzi stracciati, quando noi vorremmo semplicemente a prezzi giusti case che corrispondano perfettamente al nostro abito tagliato su misura. Ciao e benvenuti nella visita guidata della mia casa. È una cucina stretta e lunga, forno a microonde, di mobili, e passiamo al soggiorno che ha questa parete che funge da corridoio e parete attrezzata, divano e poltrona, un bel tavolino, bagno che ha in ingresso una vasca, bidet, water, eccetera, il lavandino, e questa è la piccola casa di Franco. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro. Ecco, io spero che Franco poi non scriva al nostro direttore per dire che abbiamo omesso di descrivere completamente la propria casa, perché è una lunga descrizione. Abbiamo fatto vedere alcuni vani, abbiamo tralasciato gli sgabuzzini, i servizi igienici, parte del corridoio. Spero che non se la prenda, perché mettendo su YouTube Franco la descrizione della propria casa, come un collezionista potrebbe mettere la sua galleria di quadri, la sua collezione di monete antiche, i suoi rari manoscritti, i suoi incunaboli, le sue cinquecentine, lui mette la sua casa. Dimostra che in realtà nel luogo di appagamento del desiderio di condividere con altri le proprie felicità, Franco mette la sua casa, è contento, a lui piace la sua casa, sarà una casa nulla di particolarmente lussuoso o di ricco, ma corrisponde a lui. È talmente fiero di aver esaurito e aver risolto questa fondamentale equazione esistenziale, aver trovato la casa che corrisponde al nostro modo d'essere, che è così felice che deve rappresentarla, deve farla vedere al mondo attraverso YouTube. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti quanti i radioascoltatori. Andiamo, cosa c'ha allora da dire? Ho da dire questo, io ho 62 anni, ho cambiato casa da quando sono economicamente indipendente, cioè dall'età di 19 anni, ho cambiato 14 volte, alla fine ho scoperto che quello che davvero mi interessava era essere completamente svincolato da condomini, da vicini di casa, e che quindi il sogno era interiore, non era materiale ma era spirituale. A chi lo dice? Allora, guarda, io sto in una dolorosissima situazione in cui dovrei ristrutturare una casa terremotata, mi impediscono di farlo i vicini di casa, penso un po'. Sì, perché l'immaginario appartiene, come tutti gli animali, noi compresi che siamo più evoluti degli altri, anche a una condizione di rapporto con le cose. E ma posso dirti una cosa, scusami, mi viene in mente Giuseppe, il tuo è un po' il rapporto come quegli amanti compulsivi che cambiano continuamente partner perché non trovano mai quello giusto, e poi quando si fermano finalmente non rimpiangono nemmeno averne provati tanti, perché hanno la certezza che è quello che corrisponde perfettamente, l'incastro giusto. Esatto, tant'è vero che dopo aver riflettuto a lungo ho scoperto che per me l'unica cosa buona era di una casa mobile, e così ho lasciato l'abitazione, l'ultima che avevo avuto, e mi sono messo su un camper, e quindi mi sposto, viaggio, mi fermo, e laddove mi sento meglio, diciamo, metto radici per quel periodo che mi occorre, così metto in parallelo le mie trasformazioni interiori, la mia evoluzione mentale. Quindi non è più casa, è soltanto un camper te? un camper adibito ad uso abitativo, quindi c'ha quel minimo di comfort come il bagno biologico, come la cucina. No, perché io mi ricordo aver visto, mi sembra in Louisiana, viaggiando, i tempi che viaggiavo, adesso sono molto stanziale. Ci sono intere comunità di persone che viaggiano su delle case di legno con le ruote, le spostano, le esatto. portano da un posto all'altro. È abbastanza normale vedere cittadine negli Stati Uniti fatte di case viaggianti. Infatti lì non hanno pregiudizi, io qui ricordo i primi tempi, ormai sono 5 anni, ovunque mi fermassi c'era un controllo di polizia, c'erano i pregiudizi della gente per cui venivano a parlare con me per sentire se io parlassi italiano o fossi uno zingaro o roba del genere, cioè se fossi un pericolo per la comunità del posto, cioè questo un po' mi faceva ridere, no? Perché ma tu vivi solo? Sì, vivo solo con 6 cani, insomma, anche questo è stato un po' un atto, perché non potevo mica abbandonarli, no? Mi riporto dietro. Ma se tu volessi ospitare una persona, prendere un tè a casa tua, lo porti dentro il camper, naturalmente. Sì, per ora non mi succede, perché evito di, come dire, di mettere in condizioni di ristrettezze fisiche eventuali ospiti, no? Quindi mi arrangio sempre con, se ho qualche rapporto umano, per organizzarmi all'esterno. Mm. Anche perché avendo 6 cani, insomma, diventa un po' un problema. Sì, è un po' un canile casa tua a questo punto. Sì, è metà per me e metà per loro. Poi beh, questa è la tua piccoli, scelta, figurati, io non ho nessun tipo di pregiudizio, ma vedo che questo non ti aliena dal fatto di poter ascoltare la radio, chiamare la radio. Chi ascolta te in questo momento è come se ti ascoltasse nel tuo salottino, nel tuo ufficio, e magari stai nel tuo camper. Esatto, cioè quello che poi ho scoperto ulteriormente è che quando mi fermo per un periodo di tempo un po' più lungo, delle solite 48 ore, 5 giorni, una settimana, eccetera, le persone poi incuriosite, quasi quasi, non dico che diventano invidiose per questa libertà di cui io mi nutro, ma insomma in qualche modo avverto che certe battutine, no? Diciamo, noi qui abbiamo speso milioni per avere questa bella villa e guarda questo qua invece che con 4 soldi, no? Occupa lo stesso spazio. Tu come passi il tempo? Svolgi qualche professione? Ormai vivi semplicemente godendoti la vita? In attesa di una minima pensione, la mattina faccio il dog sitter. Già ne sei dei tuoi? Campo con 10 euro al giorno e poi il sabato e la domenica faccio l'aiutante posteggiatore che mi dà quei 200 euro al mese con cui posso arrotondare e mantenere me e i cani in maniera dignitosa. Ma volendo potresti fare anche altre attività, nessuno te lo impedirebbe. Ma vivendo in un camper diventa difficile perché non c'è quell'organizzazione materiale e tecnologica. Ma cosa sai fare te? Che sai fare nella vita? Ma io in vita mia ho fatto tante cose, quello che più mi piace è scrivere, ho lavorato anche come autore testi per la RAI negli anni passati, molti anni fa. Beh, io gli altri tuoi colleghi che conosco hanno belle ville e bei palazzi. Sì, io mi sono scontrato un po' con me stesso perché non ero soddisfatto del canale che avevo preso, ho fatto anche il conduttore radiofonico per Radio 1 tra la fine degli anni 70. E l'ambiente con cui mi sono scontrato era un ambiente intellettuale a me ostile, non dico politico perché quello è venuto dopo, ma sul fatto di come i testi devono essere prodotti, che rapporto ci deve essere tra l'editore, diciamo così, o i responsabili. Caro mio, ma la vita è fatta di compromessi, se uno accetta le condizioni della socializzazione. Comunque ti ringrazio, sento il rumore delle macchine che confermano il fatto che tu sia un abitante itinerante, questo tuo nomadismo per scelta elettiva, senz'altro non scatena in noi nessuna invidia, nessun pregiudizio, semplicemente ti abbiamo ascoltato e ci ha fatto piacere. Alcide. Buongiorno dottore. Sì. A me piacerebbe poter vivere in una casa come quella di Frodo Baggins. Sì. Non so se la presente Signore. Sì, sì, sì, certo, chiaro. Vivere in simbiosi con la terra, una casa di legno scavata in una collina, in una piega del terreno, vivere in simbiosi con la natura. Non credo che sia impossibile farlo se uno fa una progettazione adeguata ai criteri e le norme vigenti, quindi potrebbe farsela. Sì, è che io essendo in Liguria non ho il terreno adatto. È tutto un terrazzamento, potrebbe farla in una terrazza. Esatto, noi non abbiamo le colline naturali come possono essere da altre parti, abbiamo delle colline che ci sono state ricavate con tanta pazienza, grattando la terra dalla montagna. Quindi io ce l'ho, diciamo che lavoro due fasce di mio fratello, che lui non aveva tanto la campagna, il lavoro io ci coltivo, ma sono due terrazzamenti. Ma lì viene bene, scusi. Sono perfettamente piane. Ma viene nel terrazzamento viene benissimo la casetta di legno infilata contro la parete, secondo me, non lo so, io la vedo molto bene. Perché le pareti sono fatte di pietra, eh. Una pietra sopra l'altra. È una pietra, si scava, eh. Sì, sì, volendo potrei farlo. Anche meglio. Penso che mio fratello mi sparerebbe. Cioè, gli erediti ci sono. Io ricordo sopra la cittadina di Fossa, proprio perché ho citato l'Abruzzo, che è stata devastata dal terremoto, c'è tutta una montagna strapiombo piena di buchetti degli eremiti. Sì. Bellissimo vedere questo. Sì, anche in Puglia, perché succede questo. Loro hanno il tufo e si scava bene. Dentro le colline, dentro certe colline della Puglia, intorno a quindi Andrea. Una casa incorporata è una bella idea, questa qua. 800 24 00 24, stanno venendo fuori le tipologie fantastiche di casa desiderata, di casa sognata, di casa che ognuno vorrebbe vedersi costruita addosso. Laura, lei come la vorrebbe la casa? Ma io penso che invece non esista una casa ideale, nel senso che... Come non esiste? No, questo non può dirlo, questa è una bestemmia. Dica non esiste nel senso, non l'ho ancora trovata, ma lei no, come se la immagina? Per me esiste soltanto nella mia mente, per cui non pretendo di trovarla mai nella realtà, e come diceva lei probabilmente è soltanto il mio involucro. Guardi, posso dire una cosa, perché, Laura? Perché Laura, io mi trovo... Sì. Io spero di non incontrare mai nella realtà ciò che sogno nella mente, sennò la mia vita non avrebbe senso. Però ci dica com'è la sua, quella casa che lei immaginerebbe, che vorrebbe. No, la mia è una casa grande, anche su tre livelli, però indipendentemente da questo è che le case a me generano ansietà, perché non riesco mai ad averle, a viverle come vorrei, le condivido con altre persone. Oh, perfetto, esattamente, vedi, ci stiamo arrivando. Ecco. La sua angoscia vorrebbe una casa tutta, tutti la vorremmo, anch'io vorrei una casa per me. Io sono felice di vivere con moglie e figlie, via dicendo, ma il mio sogno è un luogo isolato, vuoto, dove ci stia soltanto io e ci faccia entrare e uscire chi voglio. Quindi è lecito pensare, non fermi il suo sogno e continui a raccontarmelo. Siccome è raggiungibile, io dico, probabilmente la casa migliore per me, come lei diceva prima, uso la sua espressione, è il mio involucro, perché riesco a modificarlo semplicemente agendo su me stessa in un modo veloce e repentino, senza dipendere dagli altri. Oh, una casa mutevole vorrebbe lei. Esatto. E come la farebbe cambiare? Metta caso, dalla mattina alla sera, come dovrebbe cambiare casa sua? No, io parlavo la mia casa, intesa come... Ma non il riesce mio a, vincere, corpo. A vivere un attimo la dimensione dell'immaginazione? Dello spazio, lei dice dello spazio. No, di come se la immaginerebbe, anche se non c'è la stessa cosa, scusi. Sì, vabbè, a me piacerebbe una casa, vabbè, esiste in realtà un ideale, al di là di quello che ho detto prima, che è una casa su di un sol livello, senza pareti, soltanto vetri. Trasparente, completamente, un involucro trasparente. Esatto. Lei vorrebbe vedere al di fuori, dal di fuori potrebbero vedere lei oppure no? No, preferisco vedere l'esterno, non mi va che gli altri vedano l'interno. E quindi come stare in una dimensione parallela in cui lei vede il mondo e il mondo non vede lei? Esatto. Vedi, ci siamo arrivati. Perché avete paura e pudore dei vostri sogni e del vostro immaginario? No, non ho paura, è soltanto che è veramente un sogno. Ma è veramente, dire veramente un sogno è dare dignità a qualcosa, non a togliergli dignità. Se è veramente un sogno... E poi voglio dire, se anche vivessi, probabilmente non sarei così felice come immagino nella mia mente. Ma che gliene importa di questo? Ma perché c'è questo radicamento così viscerale? Perché sono molto, molto legata alle cose reali, cioè non riesco a vivere nel classico iperuranio, per cui sono molto concreta. Mi dispiace, lo so, è un grosso problema questo, però forse guarirà da grande. Tra un istante, dopo le informazioni dalla borsa, 800 24 00 24, abbiate coraggio e siate spudorati nel descrivere la vostra casa. Melog 2.0. Ciao, mi chiamo Oscar. Ora penserete di conoscermi, ma di come io sia non avete idea. Benvenuti nella mia tana. Troppo giusta come casa per chi viaggia al top. Buttate un occhio, schermo TV al plasma da 60 pollici con 6 casse surround. CD, DVD, PlayStation e udite udite, stereo 8 per quei giorni in cui ti senti un tantino vecchio stile. Questo era Tiziano Ferro che doppiava Shark Tale, un cartone animato proprio dedicato all'aspetto alle case, al costruire, immaginare, ristrutturare, vendere, comprare case, che è una delle attività che maggiormente dà soddisfazione. Quando uno sa che può cercarsi una casa è come se gli si spalancasse perenne una fetta di grigiore del cielo, uscisse un raggio di sole. Ah, una casa nuova, una vita nuova, una maniera nuova di vivere. E guardando e vedendo e lambendo case altrui, case di passaggio, case in affitto, case in bed and breakfast, uno improvvisamente vede e scopre degli angoli in cui piacerebbe anche lui vivere. La casa è fondamentale, l'involucro congruo al nostro modo d'essere, alla nostra carcassa corporea, all'espansione della nostra coscienza, è la maniera migliore per vivere in armonia con se stessi e con gli altri. Ahimè, quando si sta in una casa ostile, e chi vi parla ha vissuto tanto tempo in case ostili, in una casa che non si riconosce come propria, una casa che sembra volerti espellere, beh, è una ferita lacerante della propria anima che può durare anche per tutta la vita. Francesca. Sì, ciao. Com'è la tua casa ideale? Ah, la mia casa ideale è una serie di parallelepipedi di cemento armato, sovrapposti, affiancati, quindi una costruzione con una miriade di feritoie. Guarda, se vai, tu dove abiti? Io abito a Torino. No, perché qui a Roma si chiama Prima Porta la zona, è diciamo è nella periferia della città, c'è una bellissima collina dove le propaggini di un agglomerato urbano che si chiama Cimitero Comunale ha questo tipo di costruzione a parallelepipedo, sono tutte sulla collina, vedrai ti troveresti a tuo agio. E beh, comunque io non critico, tu ti piace vedere tutti questi bei parallelepipedi di cemento con delle piccole feritoie. Sì, è anche una vetrata grande però, verso una parte interna. Fumé però, naturalmente. Di spazio. No, trasparente. Trasparente. Per vedere la mia natura, il privato del mio giardino, del mio parco di fronte alla casa. A te piace questo nitore, questa geometria che non lascia nulla, diciamo, alla fantasia, non essere tutte no. Uguali. Vabbè, diciamo che la mia casa ideale è la villa Tugendhat di Van der Rohe a Brno, in Repubblica Ceca. Non l'ho molto presente, però mi sembra aver capito più o meno qual è lo stile. Sì. E te? Invece dove abiti? Io abito a Torino. Abito sì, ho capito, ma dove? In una zona semipopolare, diciamo. Cioè una casa, diciamo, abbastanza confondibile con quelle degli altri. Sì, sì. L'unica particolarità è che essendo all'ultimo piano ha il collegamento con la mansarda e quindi ho potuto sbizzarrirmi un po' in questa abitazione facendo delle cose un po' particolari e lavorando. Cioè nell'ex casotto dove stavano le cisterne dell'acqua, almeno se ho capito bene. Sì, quasi. Sì, che assomiglia appunto a questa sorta di razionalismo che a te piace tanto, di queste certo. Linee geometriche grigie. Beh, non credo che sia impossibile o difficilissimo costruire una casa come la tua. Probabilmente no, ci sono dei vincoli di tipo paesaggistico, perché non so, però se è qualcosa che è fortemente segnato dall'inventiva di un grande architetto, probabilmente questa cosa potrebbe passare. Rossana. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Senti, io abito nel centro storico di Sacrofano, esattamente nella piazzetta del centro storico, che misura 11 metri per 15, quindi sono 165 metri quadrati, e che è una precasa collettiva. Io vorrei che lo fosse ancora di più. No, fammi capire bene, queste misure sono del centro storico o di casa tua? No, sono della piazzetta del centro storico. Ecco, ma tu abiti in piazza, vivi in piazza? Io abito in piazza, sì. Ma sei una barbona, cioè come in piazza? No, la mia casa occupa un lato della piazza. Ah beh, però c'è una casa con quattro pareti chiuse. Certo. Ah no, perché no? No, non c'è nulla di strano. Potrebbe essere per qualcuno la casa ideale il cielo stellato. Non avrei nessun pregiudizio. Ah, certo, l'ho detto in termini... Perché è un termine di immediata comprensione, non era dispregiativo. Vedo tante persone quando torno la sera con il Frecciarossa da Milano che vivono accampati alla stazione o di fronte. Quindi sì. È un modo di vivere anche quello. No, io quindi tu, diciamo, il tuo patio è la piazza comune del paese? È la piazza del centro storico, non è la piazza del paese. Mm. È la piazza del centro storico. Beh, sei fortunata. Sì, fortunatissima. Sono felice di abitare qui. E questa piazza vorrei che fosse sempre più uno spazio collettivo, siccome si parla di come si vorrebbe la propria casa. Ecco, no? Ti posso dire una cosa, mi hai fatto venire in mente. Esiste una tipologia abitativa tipica delle città italiane degli inizi del Novecento, che sono questi grandi palazzi che hanno un grande terrazzo condominiale dove appunto c'era, come diciamo prima, il casottino in cui una volta erano le cisterne dell'acqua, adesso certo. Così è inutilizzato. Ci sono questi grandi terrazzi che occupano tutto il perimetro della casa, che non servono più a niente, nessuno va a stendere più i panni nel terrazzo, ci mettono ogni tanto le antenne e le parabole e finisce lì. Alcuni personaggi, amici particolarmente illuminati sono riusciti a convincere i loro condomini di trasformare i terrazzi condominiali che non usa nessuno in grandi luoghi di riunione, divertimento, per fare feste. Con pochissime spese ci sono comprati delle sedioline, delle panchette, hanno trasformato il locale inutilizzato dove una volta stanno i cassoni dell'acqua con un piccolo cucinino. Si fa una lista e si decide chi vuole un giorno a disposizione della casa. Può mostrare al mondo come se fosse ricchissimo, ha una terrazza di 200 metri quadri, può farci quello che vuole. Beh, lo sa che la più grande difficoltà è convincere i condomini a fare questa operazione che non costa niente a nessuno. Nessuno vuole accettare di condividere uno spazio incondiviso, inutilizzato per dei momenti di felicità. Come lo spiega lei, che ha invece davanti una piazza a cui vorrebbe dare questa, sempre più questa caratteristica? Ma guarda, gli abitanti della piazza saranno molto felici di condividere lo spazio. Infatti abbiamo fatto molte cose qui, compleanni, cene, feste di pensionamento, ben 5 matrimoni, e sono stati uno più splendido dell'altro. Purtroppo ci sono delle persone, e nella fattispecie una coppia di persone anziane, che invece non capiscono questo, mentre fino Beh, ma gli Umarels saranno anche a Sacrofano, è chiaro. L'Umarel rifiuta la socialità, non vuole rumore, non vuole vedere gente felice attorno a sé. Questo è il grande problema. Sì, esattamente questo. Dunque, io adesso vorrei passare un attimo un giudizio rispetto a tutte le velleità, i sogni, i desideri di casa a una persona che è esperto di questa materia. L'abbiamo già avuto altre volte in trasmissione, ci accompagnerà fino alla fine di questa trasmissione. Marco Costa, buongiorno. Buongiorno a voi. Marco Costa è un ricercatore presso la Facoltà di Psicologia dell'Università di Bologna, si occupa del laboratorio di psicologia ambientale e diciamo la sua passione, il suo mestiere è proprio di insegnare psicologia ambientale. Lo chiamammo in trasmissione proprio perché abbiamo parlato del suo libro che ha scritto per Franco Angi su psicologia ambientale e architettonica. Alla luce di quello che ha sentito Costa, dei sogni a volte realizzabili, a volte folli, la casa fatta di cemento in parallelepipedi, la piazzetta, il camper, quanto è stretto il rapporto fra il nostro desiderio di essere qualcosa e la casa che ci costruiamo o vorremmo costruirci addosso? Sì, la casa è espressione dell'identità e della psicologia dell'individuo e come tale gli studi dimostrano chiaramente che più è il livello di personalizzazione che si ha sulla propria casa e più è il livello di soddisfazione abitativa del soggetto, quindi è sempre molto importante che l'abitante abbia possibilità di personalizzare il proprio territorio. Non va subita la casa? Non va subita, e questo è il motivo per cui tanti radioascoltatori hanno sottolineato il piacere e il desiderio di avere case indipendenti, che si traduce nei termini di avere una maggiore possibilità di personalizzare il territorio. E all'interno della stessa casa esistono territori che sono più o meno personalizzabili, ad esempio la camera da letto è il territorio primario per eccellenza che parla di noi, in cui pochi hanno diritto ad entrare, ci sono molti meccanismi psicologici di attenzione nell'invadere quel territorio, ad esempio bussare, chiedere il permesso, ed è il territorio all'interno della casa che viene più personalizzato con poster, oggetti personali, decorazioni. Ma è molto interessante vedere che anche i territori comuni della casa, come ad esempio il soggiorno e la cucina, obbediscono a dei criteri di territorialità. Ad esempio all'interno di una famiglia, attorno alla tavola si tende a sedere sempre nelle medesime posizioni, quasi come è un territorio pubblico, però ognuno, oppure nel divano, nel soggiorno, ognuno tende a sedersi nel medesimo posto e quindi stabilisce una sorta di territorialità. Anche se poi le territorialità, dati problemi contingenti di cui non possiamo fare a meno di parlare, perché la casa ideale è qualcosa, ma poi ci sono le famiglie che crescono, le angustie necessariamente condivisibili, perché quando si è in tanti dentro una casa è un po' difficile che le territorialità non corrispondano a luoghi sovrapposti. Sì, oggi ci sto io perché mi sento che in questa poltrona sto bene io, ma so che appena mi alzo ci siede qualcun altro. Certo, ma ad esempio in uno studio che ho fatto recentemente nelle aule universitarie ho visto che l'aula universitaria è un territorio pubblico, i posti ad esempio non sono assegnati di giorno in giorno, allo studente è possibile cambiare territorio, però ad esempio ho visto che ogni studente tende a sedersi già dalle prime lezioni in una sedia particolare e in tutte le lezioni successive tende a sedersi sempre in quella sedia, pur essendo il territorio pubblico. e in questo modo stabilisce una territorialità. La territorialità ha una funzione psicologica ben precisa. Senta Costa, ci fermiamo solo un secondo a dare le informazioni al traffico. Lei ci accompagnerà anche nell'ultima parte di questa trasmissione. Abbiamo stabilito un principio importante, l'oltraggio al non luogo è la forma di esistenza e di possibilità di impossessarsi anche di uno spazio che poi dovremmo necessariamente condividere con gli altri, perché quello che noi vogliamo veramente è avere una sorta di luogo abitabile che corrisponda perfettamente a quello che noi siamo. Melog 2.0. Nell'estate del 1969 Ginger Inshow e la sua famiglia si trasferirono in una vecchia casa nel Midwest americano. Lì iniziarono i lavori di ristrutturazione, nonostante le voci sul fatto che Summerwind fosse infestata dai fantasmi. Le sedie si muovevano da sole. Un minuto erano qui e subito dopo dalla parte opposta. In qualsiasi zona della casa ci trovassimo, eravamo osservati. Anche Ginger aveva la sensazione di non essere sola. Ma non voleva credere che la sua casa fosse un covo di spiriti. A qualcuno potrebbe anche piacere una casa infestata da fantasmi, una casa in cui si sovrappongano mondi paralleli, in cui i fantasmi abbiano, come in un famosissimo film con la Kidman, l'impressione di essere loro abitatori reali della casa e gli intrusi gli altri, appunto, gli altri. E in realtà gli abitanti della casa, davanti a un tavolino medianico che facevano sedute spiritiche, volevano capire e percepire le presenze di quella casa. Ognuno ha il suo punto di vista in una casa e non sa se il punto di vista nostro è quello dei vivi o quello dei morti. Vedo tante sogni e racconti su Facebook di persone che descrivono le loro case. La vorrebbe Marco come una piccola fortezza chiusa su quattro lati, accessibile solo da un ponte levatoio, con al centro un cortile a prato inglese. Max dice: una sola non basta, ho bisogno di quella cittadina, piano alto, stile minimalista, della villa al mare luminosa e solare, quella in campagna libera e rilassante, della baita in montagna confortevole e rassicurante. Beato lui. Manuel: la casa ideale ha la piscina interna, una cucina spaziale, un salotto fornito di bar e spazio sigari, cosa fondamentale, cinema 3D privato. Guarda che sognare e immaginare è lecito, nessuno può impedirci di sognare, quindi immaginate anche la casa più improbabile, la casa più inaccessibile. Come esempio potrebbe costruirsela Michele. Michele, buongiorno. Buongiorno. Come te la stai costruendo casa tua? Beh, diciamo che io ho avuto la fortuna di avere un casolare, diciamo, dei nonni e della possibilità di poterlo ristrutturare e quindi poterlo modificare un po' a piacere. Quindi già parti bene, i nonni ti hanno lasciato già una bella casetta, quindi ci lavori un po' sopra. Esatto, diciamo che sono giovane, ho preso l'impegno anche di investire su questo progetto e meglio prenderci avanti, no? Quindi ho possibilità anche di costruirla, di immaginarla come voglio. Una volta Ti sentiamo purtroppo un po' male, vai e vieni, è una linea un po' disturbata e comunque il concetto è chiaro, tu hai già ereditato una casa che già ha una buona base, ha già un fondamento emotivo su cui costruire e adesso puoi sbizzarrirti sul sogno dei nonni a costruire il tuo sogno, è una sorta di trappola per la morte di chi lascia una casa a un nipote con questa volontà di farla progredire, di contaminarla e continuare in questa contaminazione. Ci eravamo interrotti con Marco Costa, che si occupa di psicologia ambientale. Anche questa possibilità di lavorare sulle case di famiglia, di mantenere e personalizzare quello che è una sorta di genius loci legato alla nostra stirpe, alla nostra discendenza, ai nostri parenti lontani e vicini, ha un senso secondo lei? Ha un senso molto forte, tant'è che possiamo fare una contrapposizione fra abitazioni, diciamo, in piccoli villaggi, abitazioni rurali e abitazioni in ambito urbano che godono più di anonimità. Sono proprio due modi di vita molto diversi e con delle conseguenze psicologiche molto diverse. Nell'abitazione in una zona rurale la famiglia è al centro, le conoscenze, il sostegno sociale ci pongono, per cui la nostra casa parla del nostro passato e c'è una rete sociale molto intensa. Viceversa, la casa in un territorio anonimo, urbano, sovraffollato, tende più a favorire, diciamo, l'isolamento, l'indipendenza e meno la rete sociale. E anche costruire una sorta di microcosmo interiore, tanto più è ostile o diverso o non penetrabile il mondo esterno, tanto più sarà concentrata nella costruzione del guscio verso l'interno. Volevo far sentire adesso un personaggio molto singolare che abbiamo trovato questa mattina in rete, che però sembra quasi assolvere a un bisogno non tanto inconfessato, anzi molto confessato, di tante persone che vorrebbero realizzare il proprio sogno e la propria casa. Pierfrancesco Giangaspro, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Cosa si è inventato lei? Ma 8 anni fa ero in cerca di casa anch'io e nella mia appunto affannata ricerca a trovare la casa ideale, in realtà mi sono accorto che... C'era un ostacolo alla felicità. Sì. E qual era? Importante che erano purtroppo le agenzie o gli operatori immobiliari. Anche io ho cercato in rete per vedere se c'era qualcosa che mi poteva aiutare ad ovviare questo problema, non ho trovato nulla e ho inventato il primo sito italiano di case tra privati. Cioè lei ha voluto bypassare la mediazione, che a volte è un aiuto validissimo se vogliamo, a volte è una corsia obbligata. La casa ideale è quella che l'immobiliarista ci vuole vendere, non è quella che vogliamo noi, è quella che lui in quel momento pensa che convenga a lui vendere. Quindi lei ha bypassato questo obbligo e si è inventato una sorta di trattazione singola tra privati. Ma lei ci guadagna qualcosa in questo? Assolutamente no, Case tra privati è un sito completamente gratuito, chiunque lo può navigare, vedere nel suo interno le offerte di affitti, di vendite, e diciamo che guadagna unicamente dalla pubblicità messa sul sito stesso, ed è completamente libero appunto per qualunque persona volesse acquistare o vendere casa. È chiaro che c'è un vincolo nella registrazione, che è quello chiaramente di dichiarare di non essere un'agenzia o un operatore immobiliare, e chiaramente questo per diciamo fare un po' da sì, perché avranno provato a entrare, perché come vanno a bussare alla porta dei moribondi, figuriamoci se non vanno a infilarsi nel suo sito. Guardi, onestamente sì, però è una cosa molto ridotta, lo dico con estrema franchezza, i casi sono stati veramente pochi, gli utenti che sono molto attenti, il sito stesso è molto chiaro in questo e chiede agli utenti di in sostanza comunicare in redazione se c'è qualche contatto da parte degli agenti immobiliari, perché ovviamente partono lettere di diffida. Quindi a lei si rivolgono le persone che vogliono realizzare un sogno di acquistare la casa ideale o vogliono disfarsi una casa per comprarsene una come piace a loro, e hanno la certezza di avere a che fare con sognatori e non con professionisti della compravendita. Questo mi sembra una buona maniera per concludere la trasmissione, per concludere anche la settimana. Grazie Alessandro Cappini, Fabrizio Intonti e tutti quanti questa mattina ci hanno confidato il loro sogno di abitare la casa ideale. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22.